GR Economia. Buongiorno, giornata di rialzi ieri per le principali borse europee. La migliore è stata Parigi, più 1,02%, seguita da Francoforte, più 0,76% e Londra, più 0,74%. Bene, anche se con indici più bassi, pure Milano, i servizi. Le borse europee hanno tentato il rimbalzo dopo i brutti scivoloni della scorsa settimana. I salvataggi delle aziende USA, Fannie Mae e Freddie Mac, e la frenata registrata dal prezzo del greggio, che si è allontanato dal top dei $147 al barile, hanno incoraggiato gli acquisti. Milano, tuttavia, ha registrato la peggior performance. Il MIBTEL è salito solamente dello 0,15%. Il listino è infatti stato zavorrato dalle azioni di Enel, scivolate di oltre il 2%, sui timori che la società sia ai ferri corti con il partner Acciona, con cui controlla Endesa. Sono inoltre andate male le Telecom Italia, a meno 1,5%, risentendo delle ipotesi che i conti del secondo trimestre risulteranno deludenti. In aggiunta sono state vendute le Saipem, meno 2,2%, e le Snam, meno 2,17%. Per contro, sono rimbalzati con vigore i titoli del cemento, dopo i bruschi scivoloni delle ultime sedute. Sono inoltre balzate del 4,5% le Impregilo, mentre è scattato il conto alla rovescia per la revisione della somma destinata al sequestro per l'affare dei rifiuti campani. L'annuncio verrà fatto il 22 luglio. Bene anche le banche, in particolare le BPM, in attesa della nomina del successore del direttore generale Fabrizio Viola. Tra le azioni delle aziende minori, infine, sono volate del 32% le Icon, nel giorno della pubblicazione della trimestrale. Da Radio Core Il Sole 24 Ore, Leonora Micheli per GR24. Compie 60 anni il salone aerospaziale all'aeroporto inglese di Farnborough, una delle principali vetrine mondiali del settore. La 46esima edizione del Salone Britannico si è aperta ieri e si chiuderà il 20 luglio. Aperti battenti alle 10 l'edizione dei record del Salone, con oltre 1500 espositori provenienti da 39 paesi diversi. Ovviamente però sul Salone pesavano due incognite: la situazione economica e il prezzo esorbitante del petrolio. Questi due elementi hanno un po' condizionato sia il settore che il Salone stesso. Ovviamente chi non ha problemi per quanto riguarda il prezzo del petrolio sono gli arabi, sono loro che hanno fatto i grandi affari del giorno, del primo giorno di salone. Per esempio la Boeing, che ha avuto richieste per 99 aerei, 45 da Etihad, compagnia di Abu Dhabi, 54 dalla Fly Dubai, un cost araba. Si è parlato anche e soprattutto di Finmeccanica. Ieri il presidente amministratore delegato Pier Francesco Guarguaglini ha definito lo stato dell'arte dell'operazione su DRS, la compagnia americana che recentemente è stata acquisita da Finmeccanica per una cifra di 5 miliardi di dollari. L'accordo è stato fatto il 12 maggio, ma prevede una serie di, diciamo, di permessi da parte del governo americano che sono abbastanza lunghi, e poi ci vuole l'assemblea degli azionisti che deliberi a favore di quanto ha proposto il consiglio di amministrazione. Quindi credo che andrà a buon fine nell'ultimo quadrimestre dell'anno. Andrea Silla, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Aggiungiamo che il rallentamento del mercato non frena ATR, la joint venture per la produzione di aerei regionali tra Alenia Aeronautica e EADS con sede a Tolosa. ATR venderà entro l'anno il suo 1000° aereo. L'annuncio è arrivato sempre a Farnborough dal CEO Stefan Mayer. Mayer ha confermato i target previsti per fine 2008, la consegna di oltre 60 aerei e un fatturato di 1,3 miliardi di dollari. E in chiusura vi ricordiamo che la puntata odierna di Salvadanaio, in onda dalle 12, sarà dedicata alla crisi dei mercati finanziari dopo la presentazione ieri del bilancio della Consob. Era questa l'ultima notizia, una buona giornata da Sergio Nava.